Ringrazio il colonnello Licio Mauro che si è prestato a dare un contributo a questa biblioteca in occasione di questa serata. Siamo entrati ormai nel vivo dell'organizzazione dei festeggiamenti per l'arrivo degli alpini e in questa una settimana direi intensissima. Ci sono tende, si vedono gli alpini ormai in giro per tutta la città e il clima è effettivamente festoso, insomma si coglie questo aspetto gioioso. Ieri sera, così racconto solo un aneddoto veloce, ieri sera sono andata a correre e mi sembrava di essere veramente in un altro posto lungo le sponde dell'Isarco perché era pieno di camper e di tende e la gente insomma era molto cordiale, ecco. Si è integrata perfettamente nel ritmo della città. Ora, la biblioteca ha voluto così salutare gli alpini e partecipare a questo evento organizzando tre iniziative. La prima ha avuto corso ancora qualche settimana fa ed è stata la presentazione del libro Cuore Alpino d'Abruzzo, che è una testimonianza chiaramente dell'apporto di solidarietà e che gli alpini sanno dare, sia gli alpini in congedo che gli alpini in servizio, quindi anche nell'ambito della protezione civile. Mentre questa sera sarà la volta di una marcord da parte di Mauro Licio, che ci racconterà la storia degli alpini, anche aspetti legati alla vita, alla quotidianità del servizio militare e di questo corpo che è presente appunto sul nostro territorio, che una volta era presente anche in maniera diversa e ha conosciuto dei cambiamenti notevoli che si sono riversati anche sulla nostra popolazione. Se penso solo a come era Merano o quando ero piccola, insomma, io mi ricordo degli alpini, dei militari che giravano, anche Bolzano, e oggi insomma tutta questa popolazione non esiste più. È cambiata completamente anche la città da un punto di vista architettonico e urbanistico. E quindi con l'ausilio anche di fotografie e di immagini, ecco, potremo passare una bella serata. Vi invito inoltre anche a partecipare alla prossima iniziativa che avrà luogo giovedì 10 maggio, dove invece verrà presentato un libro dal risvolto più che altro storico, no? Sarà presente con noi anche l'autore e il generale Vidulic. Sulle sedie o comunque qui al bancone avete anche la possibilità di prendere delle cartoline per tenere a memoria insomma l'invito. Grazie e grazie ancora. Se mi sentite preferirei fare senza, perché poi mi muovo, allora. Ecco, quello che scorrono sono delle immagini che metto di solito così, tanto perché si aspetta, uno dice cosa faccio, guardo delle immagini che sono tratte dal libro La guerra nelle montagne di Kipling, che è stato ristampato, edito dalla rivista militare nel 1988, allora era il direttore generale Franzosi che ha fatto parecchi anni qui in Alto Adige, e i disegni sono di Fiore, che purtroppo è scomparso 4 anni fa. Sono dei bei disegni, molto belli, che, e anche dal punto di vista, come si può chiamare, punto di vista tecnico, sono anche perfetti, giusti, non è che sono delle elaborazioni fantasiose, ma abbastanza attinenti alla realtà. Ecco, io non mi sono ancora presentato, mi ha presentato la dottoressa Trevisan, sono il colonnello Licio Mauro, sono in pensione da 3 anni e mi occupo adesso di ricerche storiche, soprattutto nel campo della fortificazione permanente e delle infrastrutture militari, avendo lavorato parecchio in questo campo, ma avevo fatto anche la mia pacca di reparti operativi, 17 anni al battaglione Bassano prima, poi al battaglione Valbrenta fino al suo scioglimento della compagnia, poi mi sono stato occupato nell'area territoriale, ma sono sempre stato legato agli alpini. Ringrazio voi di essere intervenuti, un particolare ringraziamento al generale Alberto Privicelli, comandante delle truppe alpine, che stasera ha voluto onorarci della sua presenza, e io lo ringrazio tanto. Devo stare attento perché ha detto che mi corregge se sbaglio. Se sbaglio mi correggerà lui. Ecco, adesso sposto un attimo, se mi permettete, sposto sull'altra serie di... Ecco, questa qui la chiudiamo. E iniziamo con eccolo qua. Bene, se mi permettete mi tolgo il cappello perché fa caldo e io devo parlare un po' e mi tolgo, scusatemi, anche la giacca, ma insomma ormai la... Ecco, quindi questa è la presentazione che tutti ben conoscete, adesso andiamo avanti, la cartolina, nella cartolina trovate anche il logo del Fogolar Furlan di Bolzano. Fogolar Furlan di Bolzano è l'associazione dei friulani dove ci trovano molti alpini, di cui sono per il momento presidente pro tempore. Con la biblioteca Claudio Augusto, ci tengo a sottolinearlo, fra l'altro qui c'è anche il vicepresidente, un altro consigliere, aspettiamo pure qualche altro consigliere, ma vediamo se arrivano. Con la biblioteca Claudio Augusto abbiamo un rapporto molto stretto, perché la biblioteca custodisce il fondo libri del Fogolar Furlan di Bolzano, non avendo noi una sede, sono circa 500 volumi, fra poco si riceveranno altri un centinaio di volumi che sto piano piano scannerizzando le copertine, facendovi l'elenco, e incrementeranno qui. Essendo in questa biblioteca poi vanno in rete, chi è interessato alla letteratura friulana e tutto quanto può trovarli in rete e venire qui alla biblioteca Claudio Augusto a prenderli. Ecco, questo diciamo per noi è meglio che averli in una sede, perché sono nelle mani del mondo. Ecco, qui io non voglio fare la storia degli alpini perché la faranno già sti giorni, così voglio farla, parlare un po' delle cose spicciole degli alpini, insomma, no? Vedete, già parto via veloce, senza tanta grafica. Come sono nati gli alpini? C'era il problema di difendere i valichi alpini, allora i valichi delle montagne, allora l'idea, perché non reclutiamo dei soldati nella stessa loro zona di provenienza, così sono più adatti alla montagna per difendere. L'idea era del generale, dell'allora capitano Perucchetti, che la portò al capo di Stato Maggiore dell'esercito di allora, che era il generale Ricotti, poi ministro della difesa, che sposò questa tesi. Qualcuno dice che Perucchetti l'abbia mutuata ad un altro superiore durante la lezione di... Però insomma noi non è, ci sono gli alpini, poi con il regio decreto del 15 ottobre 72 ufficialmente nascono gli alpini, ecco. Perucchetti non fece mai l'alpino, perché insomma si sa com'erano queste storie, no? Lui le ha inventate e poi dice non ne voglio la responsabilità, eh? Vabbè, dai, diciamola così, mettiamola un po' sul toro. Gli alpini e le guerre, ovvio che gli alpini dovevano combattere nella zona di dove erano abituati a vivere, quindi difendere i confini, e difatti il primo battesimo di fuoco ce l'hanno ad Adua, che mi sembra sia vicino a Tolmezzo, o no? Un po' più distante, vabbè, dai. Non era da quelle parti, comunque siccome erano soldati disciplinati, bravi, li mandarono a combattere ad Adua, poi fecero visto che si erano comportati bene, la campagna italo-turca in Libia, dopodiché c'è la grande guerra con l'Ortigara, l'Adamello e tutte queste grandi battaglie che scrissero proprio la storia degli alpini, non stiamo a ripeterle, appartengono ormai a tutto il nostro background, quindi... Poi c'è la seconda guerra mondiale, trova gli alpini che vengono impiegati sul fronte, sulla battaglia delle Alpi, sul fronte occidentale, successivamente il fronte greco-albanese e poi la campagna di Russia con tutto quello che ne consegue, fra l'altro la ritirata, la battaglia di Nikolaevka e tutti quegli enormi sacrifici che dovettero sopportare ormai quelli che erano i nostri padri, perché sono quell'età lì, oppure qualcuno vicino a noi, mio padre no, l'ha scampata per un pelo perché era del 27, quindi, ma comunque così. Mio nonno invece si fece la prima guerra mondiale come del ragazzo del 99, però tutti abbiamo più o meno in famiglia, chi più chi meno, un parente o un cugino o un parente prossimo che ha partecipato a queste guerre. Ecco, però non dimentichiamoci neanche gli interventi di alpini a favore delle popolazioni civili colpite da calamità naturali, terremoto calabro sicuro del 1908 addirittura, sembra che la ricostruzione non sia andata ancora a buon fine del tutto, ma comunque dai. Poi c'è la tragedia del Vajont, molto vicino a noi, il terremoto in Friuli, fra l'altro per noi friulani è stato un attimo di scoramento, ecco questo. il terremoto in Irpini, in Abruzzo, poi vari interventi per le alluvioni, tutto quanto, insomma gli alpini sono sempre stati in prima fila per intervenire in queste calamità, un po' perché erano preparati, un po' che erano pronti, perché avevamo anche una capacità, diciamo, di intervento rapida, bisogna dirlo, insomma, quindi, e ancora adesso sono ben pronti ad intervenire, ultimamente con la neve che ha colpito tutte le regioni del centro Italia. Ecco qua, gli alpini oggi, come si dice, dopo varie, non passiamo tutta la storia degli alpini, vari scioglimenti, varie ristrutturazioni, qualcuno le ha chiamate distrutturazioni, insomma, siamo arrivati al punto che c'è il comando delle truppe alpine qui a Bolzano, il comandante qui presente con noi questa sera, ripeto, poi c'è la brigata Iulia a Udine, la brigata taurinense a Torino, il centro militare alpino, che è la vecchia scuola militare alpina di Aosta, che è stata un po' la fucina di tanti di noi. Io provengo dai corsi della scuola militare alpina, dell'80° corso UC, e dopo sono arrivato a San Candido e da lì è cominciata la mia, che mi piaceva, e sono rimasto nell'esercito, ho formato la famiglia a San Candido, dopodiché, insomma, mi è piaciuto e poi sono andato via quando è passato il mio tempo, il mio periodo. Gli alpini oggi, adesso penso che si ristruttureranno ancora, come mi diceva il generale Primiceri qualche giorno fa, è allo studio un nuovo tipo di organigramma piramidale, che mi diceva, no? Che più o meno sarà questo, eccolo qua, ecco, così, alleggerisco un po' la serata, più o meno sarà così, dal vertice in poi, è sempre stato così più o meno, ma comunque dai. Andiamo avanti, e questa, diciamo, è la mia storia così degli alpini, per introdurre tutto quello che verrà adesso. Allora, partiamo. Noi a casa dove teniamo le foto? Sempre in una scatola di scarpe. Uno dice: ma dove le metto? Mia moglie sa, quando da per il paio di scarpe dice: vuoi la scatola? Perché sa che ci devo mettere sempre qualcosa dentro. Poi mi trovo con tante così, però mi sono servite nel trasloco che ho fatto ultimamente. Ecco, nella scatola di scarpe ci trovi di tutto, tu butti dentro lì. Poi magari la famiglia, ti mancano i genitori, ti manca qualcuno, dice: ma la roba del papà la prendi, la metti lì, poi la vedrò. Dopo passano gli anni, ti dimentichi. E allora poi, quando ci sono queste occasioni, dice: ma mi sembra di aver visto qualcosa, vai a cercare che c'è qualcosa che parla di alpini. E cosa ti trovi? Ti trovi questo bel artigliere da montagna, grande, grosso, era 1,92 m, che sarebbe il fratello di mio nonno, quindi nel 22, lui è del 2, e già qui si comincia a vedere come erano fatti gli alpini di una volta, no? Ecco, quello volevo dire, facciamo un po' le differenze, l'equipaggiamento, questo grande, grande, grosso, che imposa come sempre le classiche pose di una volta, la penna proprio che ormai arrivava talmente indietro che... allora c'è un generale che mi ha detto: c'è la penna dietro che ti tocca il sedere, quasi quasi, questa proprio era orientata verso quel senso, comunque eccolo, bello tronfio, tutto quanto. Poi passano i mesi di Naegra, una volta erano tanti, ecco qua, da caporal maggiore che si diverte come tutti gli artiglieri a tenere sulla bocca da fuoco. E non sapeva cosa fare. Vedete dietro una teoria di muli, quei grandi muli dell'artiglieria che sono abituati a portare i carichi centrali, proprio le bocche da fuoco, il blocco di culata, le ruote, cioè sono muli più grandi di quelli che avevamo noi alpini. E dietro questa fotografia si ha scritto sempre e dovunque, che era il motto del secondo reggimento, dice lui, era del primo reggimento, ma in quel periodo lì c'era un cambio, ma fra il primo e il secondo reggimento dell'artiglieria da montagna. Ecco, questa è la sua calligrafia, vedete che una volta, pur avendo fatto fino alla quinta elementare, avevano una calligrafia bellissima. Io si metto a scrivere, io mi vergogno quando leggo le lettere di mio nonno, lui è fratello di mio nonno, cioè il mio nonno del 99, lui è del 2, era del 2, no? Eccolo qua, insomma, ecco, tanto per dire, vedete com'era la divisa, beh, era proprio, era quella che si usava già la prima guerra mondiale, questa qui, eccolo qua, questo qui proprio è stata una bella sorpresa trovarlo, perché poi lo zio ha fatto, conosciuto bene, come no, anzi ha fatto il carabiniere, è stato a Berlino, fu il generale Marr ancora nel 1942, parlava un ottimo tedesco, e così, poi è stato che Regina Celi durante il 1943, perché c'era un po' di confusione, vabbè, comunque ha fatto la sua parte anche lui al servizio della patria. Poi gli anni passano, secondo dopoguerra, andiamo al secondo dopoguerra, ecco qui cominciamo a vedere i primi alpini. Mio padre, che nel 27 l'alpino l'ha fatto nel 48, proprio uno dei primi alpini, e mi raccontava che non avevano neanche le divise i primi tempi e sono rimasti in borghese per lunghi mesi. Poi ho cominciato a dargli abiti da inglesi, divise inglesi che erano rimasti qua, ritornati in patria, i magazzini non conveniva portare tutta quel materiale lì, non conveniva riportarlo in patria, perché ormai era anche vecchio, e quindi loro avevano dato al neo esercito italiano. Difatti, se li vedete, sono tutti con i calzoncini corti d'estate. Che poi, fra l'altro, adesso mi ricordo, i calzoncini corti il generale Peyronel ce l'ha fatti mettere noi nel 75 da allievi ufficiali. Tutto il giorno eravamo con i pantaloncini corti, i calzettoni, sembravamo tanti boy scout che corravamo con quegli scarponi così. Però devo dire la verità che in luglio ad Aosta non è che faccia molto, molto fresco, quindi ci stava da Dio anche con i pantaloncini corti. Ovvio che in montagna dopo, quando si saliva in più, c'era anche un equipaggiamento molto, diciamo, eterogeneo, devo dire la verità, anche l'armamento, questi erano gli Enfield quella volta, che avevano gli alpini, avevano gli Enfield. Poi qui mio padre, non so che tiene sta radio qui, non ho mai capito se era un telefono o una radio, ma penso sia una delle prime radio, perché faceva il telegrafista anche, così questo è mio padre. E queste sono, si vede proprio un atteggiamento povero, ecco, però sempre con il loro cappello alpino, dignitosi, in montagna, l'addestramento, bisogna dire che andava. Poi ecco altri qua, sempre con i pantaloncini corti, con una Breda 37, qui hanno un mitragliatore Beretta, poi c'è questo CL, ma qui ho questa foto un dubbio strano, perché qui vorrei che qualcuno mi aiutasse, che ho già individuato in fondo, perché questi mi sa che non sono proprio alpini, perché se notate non hanno la penna. Non ha la penna, mi sa che sono proprio i primi, o gli ultimi della GAF, o i primi dei raggruppamenti di frontiera che erano già cominciati. Comunque dai, farò delle ricerche. Anche l'automezzo sembra un MCL-51, però lo MCL-51 non aveva le ruote, come si dice, gemelle dietro, quindi... Anche qui ho un po' di dubbi, ma questi sono dubbi che poi, l'importante è vedere che c'era anche il sorriso, ecco, in questi soldati, c'era, poi si notano, sono sempre più o meno uguali queste foto, si mettono con le armi, la tenda, la foto viene qua, comunque sono sempre dei ricordi belli che questi. Ecco questa qua, un'altra parata di pantaloncini corti, notare solo le fasce cavigliere, siccome c'erano le pezze da piede, non c'era il calzettone, sopra mettevano le fasce cavigliere che si trovano un po' dappertutto, anche con i pantaloni lunghi i primi tempi. Io per fortuna non le ho mai messe, non le ho mai viste, ma comunque queste sono durate parecchio, questo tipo di equipaggiamento. Vedete, proprio un equipaggiamento povero, solo con la gavetta in mano. Perché? Perché anche quando erano in caserma i soldati mangiavano nella gavetta, perché non avevano, non c'erano i refettori, c'erano le cucine, ma nelle caserme non c'erano i refettori. I refettori sono venuti dopo, no? E quindi loro andavano a prendersi il rancio, lo mettevano nelle due gavette e gavettino, classico proprio, si sedevano in giro vicino allo spazio e mangiavano così i due pasti, i tre pasti del giorno. Ecco, dopo negli anni 60 è cominciato a costruire i refettori, ma questo sarà oggetto di studio anche questo. No, questo qui deve essere, mi sa, in Friuli. Quello chiusa forte. Ecco, quello è chiusa forte. L'ingresso di chiusa forte. L'ingresso di chiusa forte sul... Sul tagliamento. Sì, verso Ponteba il generale Primiceri, che è nato in quella zona, l'ha già individuato, questo è mio padre. C'era che una compagnia di alpini d'arresto del Val Natisò, del ultimamente, però prima qui ancora era il sesto reggimento, lui era dell'ottavo, lui era dell'ottavo della compagnia reggimentale, quindi. Ma perché? Questo l'ho capito dopo guardando poi il suo, come si dice, il suo foglio matricolare, insomma, no? Che mi ha aiutato molto. Comunque avete il cappello alpino, qui cominciano ad avere già un po' la camicia in ordine. Ecco. Pensiamo che in quegli anni lì la miseria si alzava di peso, ecco, e allora anche l'esercito che nasceva non è che avesse mezzi, si faceva con quell'armamento, era raffazzonato. Ecco, la Breda 37, che questo commilitone di mio padre fa vedere proprio nel suo splendore, un'arma che è stata in dotazione ai reparti d'arresto fino al 1982, quando le ultime le ho sostituite con l'MG. Abbiamo cambiato gli affustini con un programma durato 2 anni. In Alto Adige le Breda hanno sparato per l'ultima volta a Passo Montecroce con Medico a Salve in primavera del 1982, quando abbiamo fatto un'esercitazione. Siccome ormai dovevano andare in, come si dice, in essere rottamate, quindi i colpi ce li hanno dati a profusione, no? Prima ce li centellinavano, poi vabbè, comunque ci siamo divertiti a sparare. Con quelle abbiamo anche sparato, fra l'altro si sparava con i colpi veri nel poligono di Tolmezzo e Rivoli Bianchi, dalle postazioni fisse. 1982, quindi 30 anni fa, non più, non tanto tempo, questa ottima mitragliatrice che aveva qualche problema sulle lastrine di caricamento, ma comunque è ancora, diciamo, adesso vediamo di acquisirne qualcuna per mettere nelle opere che stiamo ristrutturando. Qui invece vediamo gli alpini carristi, strano, cioè una cosa che forse non si è vista molto, sulle cingolette, questo qui è a, più o meno è a Roma, questa è la Cecchignola, quando fanno la scuola di motorizzazione per fare il corso patente, il corso di cingolette, quindi, come? Eh sì, faceva la Jarabus, sì, è vero, sì. Ecco, erano là e facevano corso, quindi vedere alpini su dei mezzi, beh, corazzati, insomma, no? Cingolati, è un po' strano, però c'erano anche queste, quindi non è l'alpino solito col mulo, perché quello si vede dappertutto, basta che guardate una fotografia questi giorni, l'alpino col mulo lo vedete dappertutto, e l'alpino sulla cingoletta, insomma, non mi sembra che si veda molto. Ecco, allora per quello ho messo questa foto, perché mi sembrava queste due foto abbastanza, come si dice, interessanti, ecco, diciamo dal punto di vista. Poi altre immagini degli alpini, gruppi, vedete che le divise cominciano a formarsi, c'è già il giubbetto, no? Quindi comincia a essere un po' più di elegantezza, la cravatta, sono un po' più in ordine, anche questa negli anni successivi, anni 55-56, sono ancora meglio. Vedete qui il gruppo di alpini con questo fante in giro che sarà l'istruttore, penso, la scuola lì, tenuto a debita a distanza, quasi non inquinasse quelli con la penna, non si sa mai perché, insomma, non vorrei mai, sarai anche l'istruttore, ma c'hai la bustina. E c'era ancora la bustina, non c'era ancora il basco che è venuto negli anni dopo, il basco ce l'avevano i caristi, poi l'hanno preso un po' tutti, c'era la bustina. Andiamo avanti, ecco anche qua una rassegna di divise, di cappelli, insomma di facce di alpini. Anche questo mi sorge il dubbio che senza penna che sia uno della gaffa dei primi. Devo approfondire questo perché è interessante. Però comunque comincio a vedere già qualche, insomma, più eleganza, più stile, un po' più. A parte qui questa penna un po' fuori del cappello da congedante classico di questo cannoniere della Giulia, era tutta famiglia Giulia, avevo 2 zii materni, questo è lo zio paterno e questo non so chi è. Devo andare a vedere un po'. Sì, ho preso le foto di famiglia, è inutile che vada a prendere gli altri, almeno questo so chi sono, insomma, ecco. No, ho trovato che quando venivano a trovarci, no, orgoglioso, soprattutto questo mio zio qui, ha 66 anni adesso, 67, era tutto orgoglioso perché veniva, sai, alpino, veniva a farsi vedere, insomma, poi ovvio che mio padre allungava qualcosa perché gli alpini, si sa, soldi non ne avevano, vabbè. ovvio che era anche per questo. Andiamo avanti, passano gli anni, come sapete purtroppo passano, però insomma va anche bene, perché trascorre la vita e cominciano ad arrivare le prime foto di questo, sono degli amici che me l'hanno dato. Volevo, in queste foto volevo farvi vedere un po' la caserma, in questa caserma, la caserma Druso di San Candido, però, che adesso purtroppo è desolatamente ridotta male, ma in attesa da 12 anni, 13 anni di un progetto di ristrutturazione. Comunque quello che mi interessava per vedere la gloriosa R59, che questa campagnola proprio è stato il fondamento un po' di, delle forze armate, anche delle forze di polizia, carabinieri, robusta, versatile, insomma si poteva fare di tutto con questa, trainava l'obice, cosa che dopo non riusciva a fare invece la R76, perché questa aveva un telaio proprio su lungheroni, la R76 invece era solo una scatola di lamiera, oddio, andava bene anche così, andava bene in modo di dire. Comunque, ecco questa qui col suo conduttore, in divisa qui invernale quasi, sì. Lo stesso conduttore lo troviamo sotto con la CL Lancino, la CL 51, perché c'era l'OM CL 51 e invece questo era il lancio della Lancia, un mezzo che portava 10 persone, molto alto, con marce ridotte, che aveva questo sistema di cambio a lato, l'ho guidato, per quello posso parlarne a ragion veduta, ecco, facevamo le scuole guida anche su questo. E, però era alto e stretto, quindi come ribaltarsi, era molto vicino, era un po' pericoloso, ma comunque ha fatto la sua vita. Io mi ricordo che l'ultimo, che era sua Glorenza, quello del Val Brenta, l'ho caricato sul treno a Malles, da Glorenza l'aveva portato a Malles, per mandato in versamento a Verona, e l'aveva caricato sul pianale del treno a Malles quando ancora la ferrovia era in funzione. Erano gli anni 82-83, mi sembra, e addirittura il pianale lo portò su una vaporiera. Quando è stato su per caricare, ho visto arrivare questa vaporiera e con un pianale dietro, cioè cos'è? E dice, non avevamo più, perché si stava smantellando la linea Merano Malles, se le ferrovie non avevano, non era più elettrificata. Ha detto, mandiamo sulla vaporiera, e ce li ha fatto fare, metto poi il macchinista per fargli fare un giro di prova, perché è un reperto storico. Comunque, ecco, per fortuna, l'ultimo CL del Val Brenta nell'82 è andato via con la vaporiera. Qui un'altra fotografia che mi ha dato lì il socio. Qui, questo qui è il cane, è un cane, ecco, non ci sono solo i muli negli alpini, c'erano anche i cani, che venivano impegnati sia nelle polveriere, nel recinto delle polveriere, sia nelle casermette, corpi di guardia, nelle reparti d'arresto. Quindi c'erano parecchi cani. Nel 74 che è fatta sta foto qui, questo era l'ultimo cane del Val Brenta, diciamo. Ecco, dopodiché ormai aveva smesso di fare il suo compito nelle casermette, perché erano state chiuse, e il caserma continuava a essere coccolato dai soldati. Lui voleva vedere solo gente in divisa, quando vedeva qualcuno non era in divisa, mi raccontava Enzo, me l'ha dato a tuo fratello questo, no, il nostro socio. Ecco, lui era così, quindi avevamo i cani, che anche i cani avevano come i muli la loro spettanza, non è che si davano gli avanzi, no? Per loro era previsto tanto riso, tanta pasta, tanta carne, come era previsto il fieno, l'avena e il resto, che per i muli c'erano le spettanze, come per i soldati, insomma, erano... E presi il cane con un foglio matricolare, dopodiché quando erano vecchi venivano riformati e venduti, come è successo agli alpini, ai muli, che sono stati riformati e sono stati poi venduti al commercio, insomma. Ecco qua. Bene, andiamo avanti. Qui sempre a San Candido volevo farvi vedere le divise, vedete che cominciano le mimetiche, tutte mimetiche, che dopo quelle tute che erano a fatica, quelle divise un po' che non erano delle tute mimetiche, quegli anni 70-75 cominciano a vedersi le tute mimetiche, anzi qui cominciano a finire, perché nel 75 siamo stati, abbiamo adottato le divise, quelle verdi, le tute verdi. La radio è una SCR 300, radio americana, che è stata un po' la base per i collegamenti compagnia Plotone, che pesava i suoi buoni 15 kg, che aveva quella batteria che pesava, che mi toccava sempre portare alla scuola militare alpina dietro il generale Folegnani, che a suo tempo era il mio comando di compagnia, e insomma, e questa radio qui che pesava, che poi era utilizzata anche nelle opere fortificate, tu l'hai vista, immagino che tu l'hai pure portata sul bastino universale dividere i carri, comunque ecco, bei ricordi, anche se pesanti, ma eravamo giovani quella volta, insomma. Il fucile, ecco già il Garand, vedete il Garand, fucile americano, perché dopo il 91, dopo il Enfield, sono stati dotati con i Garand. I Garand erano americani. Quando c'erano gli americani che ci vedevano, ci fotografavano sempre, e gli dicevano: guarda, c'è il fucile che aveva mio nonno in Corea, che aveva mio nonno. Ci dicevano così, e loro avevano già l'M16, noi avevamo ancora i Garand, che devo dire però per me era un'ottima arma, che aveva la sua bella precisione, ovvio, aveva i suoi limiti in un tipo di guerra moderna, però per cui poi è stata, si è evoluta nel FAL, nel fucile automatico leggero, quindi, ma comunque diciamo che io l'ho sparato parecchio, e anche con una di queste armi, che fra l'altro dotata di cannocchiale, erano armi da cecchino, ecco, ce n'erano in ogni battaglione, ce n'erano una certa dotazione, sai. Ecco qua, questa invece è una camerata in quegli anni, e qui cominciano le foto, sapete, delle mucchiate, no? Allora vedete, però qui volevo farvi notare, a parte il fatto che qui è un momento di relax degli alpini, vero che è un momento di relax questo? Un momento di relax giusto, fra l'altro, vedete che affollamento proprio, qui gli zaini sulle planche uno attaccato all'altro, gli armadietti ancora non c'erano, quella volta tutto l'equipaggiamento era qua, capelli un po' ordinati, vedete che la branda non ha la rete, questa ha il telo branda, questa, c'erano dei ganci, qui si metteva un telo, e lì questo telo era un po' duro, con questo materasso, e questo volevo appunto farvi notare questo, a differenza di quello che c'è adesso, che poi vedremo più avanti, e poi appunto né armadietti né niente, però l'allegria non mancava, perché quando si ha 20 anni e una bottiglia come qui è tanto tempo, scoppiano anche le allegrie, va bene? Ecco qua, poi nella stessa caserma c'era ogni tanto qualche pezzo d'artiglieria, questo è un cannone da 90-32 leggero che ho trovato io nel 79 quando sono stato arrivato alla Druso, che era ancora lì, che serviva per addestramento, era uguale a quelli che avevamo in opera, tra l'altro un'ottima arma, poi lo rivedremo in altre occasioni, però era stato montato su questo trabicolo qui per fare addestramento in caserma, cioè in pratica avevano ricreato uno scudo come poteva essere in opera su due ruote per poterlo utilizzare. Proprio era stato fatto dall'arsenale di Napoli con pezzi, mi ricordo che il capo tecnico Bonopunto dell'arsenale di Napoli, un genio delle artiglierie, gli ho detto: ma com'è che l'hai fatto? Ho preso un pezzo qua, un pezzo là, ho fatto questa, tanto a te che ti serve, cioè, ti serve solo per addestramento, e difatti era questo, ovviamente l'alpino gli serve per fare le foto, e gli interessava l'addestramento, vabbè. Comunque, però, il fatto mi interessava avere sapere di rivedere qualcosa che avevo già trovato. Fra l'altro, in questo capannone qua c'era un carro armato. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, questa è la caserma, questa bella foto proprio degli anni 70, in cui si vede in primo piano la caserma Druso. Vedete, queste foto andavano a ruba fra i soldati, non si poteva fotografare le caserme. Però con la scusa di fotografare San Candido e Montelmo, in primo piano c'era la caserma. Eccola qua. Qua dietro invece c'è la caserma Cantore. Cantore, che è una caserma del 1912 costruita dal comune di San Candido per i soldati austriaci e poi acquisita da noi dopo il trattato di Saint Germain. Ho visto il contratto verso il 1920 più o meno, dove poi abbiamo, ed è ancora attiva. Ancora attiva, mentre la caserma Druso, come dicevo, è stata è lì in attesa di destinazione d'uso, diciamo così. Bene, andiamo avanti. Ecco, adesso vorrei parlare di alpini un po' speciali, che qui non, questi giorni anche nel libro Alpini, anche poi nel, come si chiama, nel, nell'altro libro delle immagini, non sono molto citati. Noi alpini d'arresto, tu dici che arrestavate qualcuno, non arrestavamo nessuno, dovevamo arrestare noi, cioè dovevamo essere ancorati al territorio, nelle nostre opere, a bloccare, a contribuire a fermare una prevista invasione da parte del blocco del patto di Varsavia. Ecco, i battaglioni che componevano questi alpini d'arresto che hanno operato qui in Alto Adige erano il battaglione Valchiese, che operava nell'ambito della zona dell'Orobica, quindi Brennero e la Val Venosta fino a Resia. Il Val Brenta, che aveva la Pusteria come punto di operazioni principali, la Pusteria, e poi c'era il Val Cismon, che era Santo Stefano di Cadore ed era della Brigata Cadore, mentre il Val Brenta era inquadrato nella Brigata Tridentina. Invece il Val Cismon si occupava dello sbarramento di Passo Montecroce, Comelico, di Landro, di Braies, quindi tre sbarramenti, quelli che portavano nella Valle del Piave, in pratica lì a Cortina, ecco, blocco di Cortina. Questo è lo stemma della 2S2, la compagnia che ha comandato per qualche anno e che ha raccolto l'eredità di tutti gli sbarramenti di questi battaglioni. Questi erano i battaglioni che avevano la fortificazione in Alto Adige, alla fine man mano sono stati sciolti e tutto è stato raccolto da questa compagnia, che allora aveva competenza su tutto l'Alto Adige fino alla fine della fortificazione. Ecco, io ho comandato questa compagnia per qualche anno, questo distintivo l'abbiamo inventato in quel periodo là, ci distinguevamo un po', ci piaceva essere distinguiti perché facevamo un lavoro tutto particolare, tutto oscuro, che nessuno conosceva. Poi vi spiego, andando avanti vedrete. Ecco, in pratica noi eravamo le talpe, ecco, perché lavoravamo sottoterra, nessuno ci vedeva. In questa immagine sempre di Lacava, il disegnatore che mi ha fatto, vedete questa, le feritoie, lui l'ha vista così, noi talpe che spuntiamo da questa opera, come dalla terra. Andiamo avanti, ecco come si presentano le opere. Adesso uno che va in giro e vede, e qui dice vabbè, un pezzo di roccia, un cocuzzolo, nient'altro, insomma, il terreno l'ha completamente mascherate, l'ha completamente assimilate. Una volta erano come si dice, erano circondate da filo spinato, concertina e spinato. Che poi fra l'altro le individuava di più, perché immaginate i contadini che tagliavano, come tagliano l'erba bene, e invece trovarsi lì il filo spinato, che noi non è che tagliavamo tanto l'erba, insomma, non avevamo neanche le attrezzature. Allora invece nel 78 per fortuna ci fu dato l'ordine di togliere tutti i fili spinati, erano venute meno anche certe esigenze di protezione, perché erano state introdotte durante gli anni 60, insomma, durante gli anni caldi, e allora in quel momento lì, allora ha detto, beh, inutile che noi teniamo queste brutture qui, e allora hanno approfittato i contadini, si sono trovati l'erba da tagliare, ma noi ci stava anche comodo, perché in fin dei conti poi tutto quanto veniva ben, come si dice, la proprietà era sempre nostra, però tutto bello rasato e non si vedevano. Difatti queste qui sono opere di Antarselva, che se andate a vederle in quel periodo lì, questa mi sembra che l'abbiamo fatta in gennaio oppure in novembre, non so, era quel periodo lì, no? E l'ha fatta qui l'uomo Trapozza, autore del libro Bunker, e queste sono due foto sue, ecco. E allora c'era un periodo, insomma, così, ma quando c'è tanta vegetazione ancora di meno si vedono. Ecco, questo è l'ingresso in ambiente nevato, vedete, si va proprio sottoterra, uno che non passa di lì, questi qui sono i muraglioni, cioè la protezione dell'ingresso, uno entra dentro nell'opera. Altro ingresso ad esempio è questo è l'ingresso dell'opera 7 di Valdaura, quella lì all'albergo al vento, che è lì, insomma, fatto proprio in un giorno particolare, un giorno in cui siamo andati apposta lì a fare un determinato lavoro e anche un servizio fotografico. Queste qui sono le foto del colonnello Lantieri, Amerigo Lantieri. Ecco, quando si entra dentro l'opera allora si va ad accendere la luce, perché tutte le opere avevano un impianto elettrico. Questi sono alpini di leva, non è che sono tecnici specializzati, sono alpini normali, insomma, che facevano la leva. Ecco, vedete già che qui la divisa comincia a cambiare, ecco, non più la mimetica, una divisa, cioè una tuta da combattimento, da servizio e combattimento, di un colore solo, monocolore, verde, con i pantaloni lunghi. Poi vedremo una di quelle, queste qui con i pantaloni corti, che è stata la mia disperazione sempre, e quella di mia moglie, perché c'erano i calzetti che andavano, ma poi vedremo un po'. Ecco, questo è l'impianto elettrico, il quadro luci. Questa è una scalinata che porta alla postazione di cannone, di mitragliatrice, una scalinata interna, vedete qui i fili che corrono, tutto quanto, esterni, in modo, ma su queste opere che si possono adesso visitare, perché ce n'è quella di Fortezza, l'opera 3 di Fortezza, che è stata attivata, e dall'anno scorso anche l'opera 20 di Passoresi, attività qui col geometra Pozzo abbiamo contribuito a fare questo lavoro, e anzi lo dico perché sono da visitare queste due opere. Fra un po' cominceremo anche a preoccuparci di un'altra opera a Versacco, quindi sì, queste opere vanno visitate, è interessante vederle perché vengono ripristinate allo stesso modo in cui erano. Noi le abbiamo lasciate così, tolte le armi purtroppo, ovviamente. Purtroppo dico, perché forse conveniva lasciare le armi dentro come hanno fatto in Svizzera, disattivate, ma insomma così. Comunque la provincia ha un progetto per tutte queste che è meritorio, fra l'altro. Andiamo avanti, ecco dentro le camerata, dentro l'opera. Ecco, queste qui sono le brande famose che erano anche nelle camerate. Poi le camerate sono arrivate le reti, invece qui delle opere sono rimaste le brande per i telibranda. Poi si dormiva sopra col sacco a pelo, materassino, non sempre, si andava poche volte in opera perché i soldati dormivano in caserma. Hai voglia, questa qui è umidità, insomma, anche quei 3-4 giorni che si passava. Poi se invece qualcuno era più lungo e non ci stava, come qui sono tenente Caldonazzi, che era lungo quasi 2 metri, che è lungo quasi 2 metri, allora preferiva dormire per terra perché qua non ci stava dentro. Eccolo qui, nell'ultima esercitazione che ha fatto la 262 a Prato la Drava, nel nostro sbarramento, che ha vicino a sé anche il piano quadrettato di opera. Poi adesso non li trovo più, dovrò rifarle qualcuno. Vabbè, lui è qui che dorme. Queste sono delle poche foto che esistono delle opere. Dentro le opere non si poteva fotografare già di per se stesso, già in vicinanza. C'erano i cartelli, vietato fotografarsi, si veniva, c'era il pattugliamento. Però ogni tanto, poi quella volta c'erano i rullini, e allora bisognava farle sviluppare, poi magari qualcuno poteva, insomma, era un rischio fare le fotografie. Qualcuno è riuscito a farle, per fortuna, perché adesso abbiamo delle documentazioni. Se invece avessimo tutti la digitale, di queste foto sarebbero tante. Invece ne abbiamo poche, ne stanno arrivando ancora, evidentemente qualcuno disobbediva, per fortuna che disobbediva. A questo punto bisogna dire così, insomma. Andiamo avanti, ecco qui, proprio quel giorno hanno smontato questo cannone da 90-32, qui sono i sergenti, da allora sergenti maggiori, Proietti e Fofo, Davino, che smontano il cannone. Proprio quel giorno lì è stata documentata proprio questa attività, perché ormai la fortificazione stava smantellandosi, e questo qui non è una prova fatta per il fotografo, ma è proprio lo scavalcamento della bocca da fuoco da questo cannone da 90-32, cioè 90 mm, che sparava un proietto che poteva perforare circa 25 cm di corazza, con un impatto così, quindi un ottimo cannone a tiro lento, e insomma era un bel cannone. Quando sparavamo a, come si dice, a rivoli bianchi, alla distanza di 400-600 metri, era ogni volta, in un attimo il cannoniere si prendeva confidenza, i primi 2-3 colpi no, ma poi andava via, il bersaglio era sempre preso, quindi avevamo fiducia nei nostri mezzi, ecco, diciamo, perché l'importante è anche avere fiducia in quello che si usa, perché questa che ti dà più forza, la fiducia nei propri mezzi. Ecco qui, ecco qua la bocca da fuoco senza blocco di culata che viene portata via, pesa 97 kg, quindi non è che sia anche uno può portarla via, viene sfilata, qui sotto c'è proprio la culla a fusto, e viene sfilata e portata via. E dove vanno tutte queste bocche da fuoco che avevano tutti questi cannoni? Questo è il 92, eh? Noi nel 92, cioè 20 anni fa, avevamo ancora i cannoni sulle strade dell'Alto Adige. Faccio per dire, passando per Perca, il cannone era a 6 metri dalla strada, che non si vedeva, ma era lì il cannone. Quindi molti si meravigliano, ma erano lì, ed erano 105 cannoni che avevamo in giro, di vario tipo, di vari calibri, di varie tipologie. Ecco. E qui siamo alpini, siamo alpini, siamo le talpe. Ecco. Andiamo avanti, ecco qua i cannoni dove sono finiti tutti, alla caserma Decobelli di Brunico, che è la sede della compagnia, ben allineati e coperti, pronti per essere tagliati. Dopodiché tagliati massimo 1,5 metri, caricati sul camion e sono andati in fonderia, in Valsugana, cioè anche dove sono andati. Eccoli qua che piano piano li mettevamo qui, in attesa che venisse appunto questa ditta che doveva smantellare. Ma smantellare non solo in Alto Adige, ma in tutto, anche in Friuli, tutta la fortificazione. Andiamo avanti, ma non avevamo, ma noi alpini da retta avevamo anche i carri armati, altro che le cingolette che aveva mio padre e tutto quanto. Questi sono gli M26 che avevano armato poi tutta la frontiera contro la Jugoslavia. Questi qui, un cannone da 90-50, gli M26 Pershing, eccolo qua. Questa sembra una foto sulle alture del Golan, invece non è altro che a Brunico questo, alla caserma Enrico Federico, dove erano stati messi lì, poi sono arrivate le reclute e allora mi hanno chiesto di portarli da un'altra parte, facile a dirsi, tanto poi che pesino. Noi li avevamo portati da Gorizia, li avevamo caricati, andati a prendere a Gorizia le Com Goriziane, una ditta che l'aveva revisionati, e li abbiamo caricati sul pianale del treno, sono arrivati a Brunico, poi con questo TC80, trasporto carri, li abbiamo portati in caserma. Poi da qui li abbiamo portati a Villa Bassa, perché dovevano sostituire altri carri armati, questi erano due, non di più. Noi avevamo solo due carri armati, comunque noi alpini del resto avevamo i carri armati, senza motore, questi erano senza motore, però sparavano. Questo invece è uno Sherman, ecco, vedete che è aggressivo, sembra proprio in pieno combattimento, pronto a sfidare chissà chi, invece niente, lo stavamo solo tirando fuori dalla vasca. Questo era Dobbiaco, lì sulla piana, proprio sulla destra, era lì a Dobbiaco, anzi c'è anche un articolo dell'Alto Adige che mi sono riservato che ne parlava un po' di questo cannone, che dopo 40 anni che era lì siamo riusciti a tirarlo fuori sempre con il trasporto carri, e dopodiché l'abbiamo portato a Villa Bassa dove è stato rottamato. Eccolo qui, lo Serma che sembrava tanto, vedete qua, aggressivo, invece lo stavamo tirando via, ma questo ormai da anni non veniva più impiegato. Altro Serma che si vede bene qui, questo è il primo pezzo, la prima arma, il primo complesso d'arma che abbiamo, come si dice, rottamato. Questo era, abbiamo iniziato con questo, ed era qui a Collisarco, fra Collisarco e Vipiteno, Tenellovale, lungo la vecchia strada del Brennero, questa qui, su qui, ed era lì in questa vasca qua, tirato fuori, anche lì abbiamo rottamato. Quindi abbiamo i carri armati, andiamo avanti, e non solo i carri armati, anche delle torrette di carro armato che erano state posizionate su delle opere costruite apposta per questi. Questi cannoni, sempre l'M26, il cannone 90-50, questo ancora intero, ma per poco, perché qui poi l'operaio ha cominciato a tagliarlo, e erano due a Passo Montecroce e avevamo rottamati pure questo. Vabbè, era così il destino. E qua la desolazione di un capitano Mauro che vede tutte le sue armi, ridotte così. E insomma, perché fra l'altro erano ancora efficienti. Perché siccome lavoravamo, devo dirlo bene, infatti, quelli dell'arsenale che erano venuti, ma sono tutti efficienti, beh, dico, avevo il personale, devo pur farlo lavorare, E così la talpa guerriera ci ha messo i fiori nel suo cannone e ciao ciao a tutti quanti, e saluta perché dice oh, è finita un'epoca, è finita la fortificazione. Dopodiché gli alpini del resto non sono più esistiti, sono persi con gli altri alpini. Ecco qua, adesso vedremo un po' di foto così di guerrieri alpini del resto. Vedete la nostra talpa alpina che col suo bel fucile che vuole combattere, eccolo qua, questo proprio un classico talpa, questo è il caporal maggiore, non mi ricordo il nome, è qui vicino di Egna, eccolo qua, tra l'altro l'unico soldato che ho fatto congedato sergente, era bravissimo in gamba, per fortuna che ha fatto ste foto perché era proibito tutto, qui a Passo Monte Croce Comenico fuori dall'Opera 3. E questa invece l'ha fatta dentro l'Opera 3, dove c'è la postazione di mitragliatrice, vedete questi sono colpi a salve, era un'esercitazione, qui è la mitragliatrice, la MG, quella che aveva prima incavalcata sull'affustino, e lui ha tracolla il FAL BM59 per truppe alpine, fucile automatico. E così noi abbiamo l'interno di un'opera con un'arma incavalcata che si vede bene, altrimenti non ce l'avremo. Altre scene di vita militare, questo è l'idolo dei soldati, la cucina rotabile. La cucina rotabile, guardate, era come la calamita. Se lì passava una ragazza e c'era la cucina rotabile, l'alpino andava verso la cucina rotabile, perché lì c'era da mangiare. Perché, soprattutto perché quando c'era la cucina rotabile si era al campo di esercitazione, quindi fame ce n'era. Quindi, allora si avvicinavano tutti. Chi a fregare un pezzo di pane, chi a ruffianarsi il cuoco, questa nella casermetta, cioè gli alpini normali andavano in giro a chiedere aiuto ai contadini, noi invece avevamo le nostre casermette, quindi ci arrangiavamo. Questa è la Val d'Aura fatta, sempre con le lantieri, la foto, questa è la Val d'Aura, nella casermetta di Val d'Aura che adesso hanno demolita per costruire su una palazzina Ipes, insomma. Mentre questa è a Passo Resia, la caserma Lupi di Resia, ed è appunto che la casermetta c'è ancora e verrà utilizzata, vedete la cucina rotabile, il coperchio poi ti serviva anche da tavolo, i soldati che sono qua in attesa, e questo qui è lo scolapasta, vedete, questa qui è una cucina rotabile a 200 razioni, lo scolapasta che poi per poterlo tirare su qui c'è il l'argano, c'è il braccio tipo la brucola manovella, si tira su, si vedeva cadere quest'acqua fumante e allora cominciavi le gavette a muoversi perché ancora pochi minuti si mangiavano e vedevi questa roba fumante che veniva sulla pasta, no? E perché era quello il piatto principale, qualche c'era un bistecche, c'era di tutto, perché non è mai mancata, devo dire la verità, anzi, no? Però era quella che dava più il senso del pasto, una bella pasta, una bella mescolata dopo, eccola qui invece sono soldati, abbiamo andata male sta foto, addetti ad attività tattiche molto impegnative, vedete che questo è proprio un addestramento proprio per le mamme, se lo sapevano magari la dice, ma tu lo facevi sottonaia, perché non mi aiuti anche a me a fare un po' di cucina? Io non sono cuoco, io sono alpini normali, insomma. Peccato che la foto si sia ristretta perché lì, vabbè, comunque questa qui invece è stata fatta nella casermetta di Passo Monte Croce Comenico, ed era gennaio 1988 durante i casta che sono stati fatti a Padova, noi eravamo ospitati lì in plotone poligono, che era poi, io ero direttore del poligono, avevo i miei uomini e quindi potevo lavorare più serenamente. Ecco qui, adesso vai avanti, altre immagini diciamo di campo, questa qui la classica dopo la marcia che ti metti i piedi, cioè, le vesciche non mancavano mai, perché d'inverno andando con gli sci nella neve i Vibram si zuppavano di acqua, allora vedevi questa roba qui tutta, e allora camminando si sfregava il tallone cosa fate? E allora c'erano le vesciche, allora questo qui fatto a Prato Piazza, proprio al rifugio Prato Piazza vicino lì al forte, ed è 1979, febbraio 79, qui siamo qui che ci stiamo godendo il sole, è appena andato via il sole, meno 20, quindi tutti a tirarsi su le scarpe, ecco che qui invece nel 1990, ultimo campo invernale della 262, che vedete qui sottotenente sempre Caldonazzi, qui il sergente maggiore, allora sergente maggiore Beppe Colagrande, no? Eccolo qua, Beppe, rompeva le scatole quella volta, simpaticissimo, una persona in gamba. Poi durante i campi si faceva anche cori polifonici, vedete qui, immagino Palestrina, no? Tutti questi canti molto delicati, soprattutto, no? Si vede proprio dalla grinta di un improvvisato direttore maestro di coro. Ero il vice comandante della compagnia, quindi spettava a me, diciamo, la parte ricreativa, no? Ecco, comunque era così. Andiamo avanti, ecco qui, vedete la branda, ecco Conci Marcus, come si chiama sto caporal maggiore. Vedete un po', questa era la Decobelli, camerata della 262, ma vedete che c'era un po' di differenza con quella camerata là, ma non è colpa di certo neanche degli alpini, io sono il primo a dirlo, perché effettivamente le condizioni di vita erano cambiate. Adesso vedete delle brande, insomma, con delle reti, non con dei cori, degli armadietti capienti, il cubo ben fatto, tirato. Questa foto qui l'hanno fatta proprio, diciamo, non è una foto di posa, l'hanno fatta loro, quindi fa anche piacere vedere che tenevano anche le camerate in ordine, lo sgabello, insomma, dai, un po' di soddisfazione. Ecco qua invece, qui volevo far vedere una cosa in questa foto, le uniformi. Questo è il 1977, qui l'ufficiale di picchetto con le ghette, con la sua bella divisa da drop modello 71, e qui c'è il sottufficiale di ispezione in tuta da combattimento, quella con al ginocchio, e questo che vedete sono due pezzi di gomma piuma messi dentro che ti facevano andare in giro. Ma cosa succedeva, soprattutto a me che ero alto? I calzetti dopo qualche lavaggio si abbassavano. Non è che si abbassava gradini, così andavo in giro che avevo sempre un po' di pelle. Il generale Rocca si incazzava sempre, mi diceva: tu sei questo, quello è sempre molto gentile. Prima ti aggrediva, poi ti... bravissima persona, perché mi ha salvato, a dire la verità. E quindi c'ho un ricordo, però lui mi cazzolava sempre perché così. Effettivamente eravamo un po'... Poi per fortuna ci ha dato il pantalone, 2 anni, 3 siamo stati così, e poi ci ha dato il pantalone, vero? Davano fastidio, poi avevano tolto la gomma piuma, c'era solo il rinforzo. Se la levavano gli alpini. Sì, però. Poi ce la levavano anche i soldati stessi, perché insomma avere l'estate poi dava un fastidio enorme. Ecco. Andiamo avanti, ecco, questa qui è la via di fuga. La notte, cosa faceva l'alpino dopo il contrappello o anche prima? Si organizzava per scappare dalla caserma di notte. E allora ecco questa qui, vedete la tecnica? 2 bancali uno sopra l'altro, vicino al muro, dall'altra parte hanno preso, c'è un campo di pallacanestro, quindi uno si arrivava qui, si arrampicava fin qui sopra, il filo spinato, vedete che è stato abbassato già tutto quanto, tutto predisposto, e poi si appoggiava giù, così dopo per risalire tornava da lì tutto quanto. Ecco, questa qui l'ho fotografata alla Mignone, quando ancora nel 94, mi è rimasta molto impressa a vedere questa qui, no, aspetta che la fotografo, che questa dà l'idea un po' anche della l'alpino, no, a 20 anni, cosa vuoi, la sera, vaginarsi, oppure il pomeriggio, questa qui era rimasta lì, senz'altro sarà stata tolta poi dai muratori quando hanno demolito la caserma. Andiamo ancora avanti, mancano poche ancora, ecco qua, qua invece è il gruppo bandiera, e qui siamo un po' adesso. Questa qui che vedete qui sopra è la bandiera del 6° Reggimento Alpini, allora custodita dal Battaglione Alpini Bassano. Nel 77 era l'alfiere di questa bandiera. Questa qui è stata una cerimonia di Nikolaevka fatta alla caserma Decobelli, e c'era la bandiera del Bassano, cioè del 6° Reggimento Alpini, e questa è la bandiera che sfilerà venerdì, no? Sfilerà questa bandiera qui, e qui c'è un po' di orgoglio da parte mia, insomma, che ho fatto la fiera. Questo era il capitano Venturi, che era l'aiutante maggiore, cioè la vita se li ricorda tutti, questi ci si ricorda tutti, il colonnello Langella, comandante di battaglione, l'allora tenente Ruffo Maurizio e poi un sottotenente, eccolo qua. Sì, sì, questo è Maurizio, ecco qua. E questo era il comandante del battaglione Vambretta. Ecco, questa qui, io ero al Bassano quella volta, siamo venuti giù da San Cane Dobrunico, era a gennaio, perché Nikolajevka si fa a gennaio, con la campagnola, la R-59 scoperta, perché la bandiera non doveva essere messa sotto, era foderata nel fodero, nella sua guaina, nella sua protezione, lì io che la tenevo stretta questa bandiera, me la sono portata giù, 30 km proprio a gennaio scoperta, non guardate, guardate, ma poi con la divisa doveva stare, mica ti tiravi sul bavero. È arrivato anche sudato, eh? Arrivato sudato. Beh, ma dove? Quasi immaginati. Questa invece è la foto, questa qui, adunata nazionale degli alpini del 1982 a Bologna. Questa Bologna, anno in cui c'era il centenario del battaglione Valbreda, del battaglione Valtagliamento, festeggiavano il centenario di fondazione. Gruppo bandiera corrisposto dalla bandiera della scuola militare alpina, questo è Ruggirello, capo gruppo dell'ANA di Laives, che era tenente alla SMALP. Questo è Morocutti, forse li conosciuti. Questo sono io, questo è il pantalone e questa è la bandiera del Feltre, del battaglione Feltre, ora della bandiera del settimo alpini, che adesso è a Belluno, comunque quell'anno lì era la bandiera, diciamo era, sfilava il Feltre a Bologna, qui siamo a Bologna, quindi nel 1982, 30 anni fa esatti, ecco qua, i chili erano più o meno gli stessi, 30 anni fa ma i chili lo stesso. Andiamo avanti, questa la caserma De Cobelli di Brunico, questa zona adesso non è più così perché questa zona qui sono stati costruiti per fortuna due palazzine da 9 appartamenti l'uno per i quadri ufficiali e sottufficiali di Brunico, questa zona qui verrà data, sarà data adesso in permuta al comune che ha realizzato una nuova caserma per la polizia di Brunico e anche per la Guardia di Finanza, mentre quello è il corpo principale della caserma, che è stato sede del 6° Reggimento Alpini, la caserma Becobelli, poi del battaglione Valbrenta, ci sono la compagnia carabinieri di Brunico. La chiesetta che era intitolata alla Virgo Fidei, a San Maurizio, adesso è intitolata alla Virgo Fidei, comunque vabbè, è sempre lì che viene impiegata. E queste erano le tre cime che erano lì, che adesso hanno demolito. Grazie per l'attenzione, sono a vostra disposizione per eventuali domande. Un bel saluto a tutti e la forza vi saluta. Penso di non avervi annoiato, non volevo fare l'evocazione storica, volevo solo parlare un po' di noi alpini. Un po' di quelli d'arresto, un po' tanto di più, perché onestamente il cuore ancora batte. Bene. Bravo. Grazie.